ne sai della notte se torni a casa presto? Che ne sai di una donna se non l'hai persa mai? Che ne sai di una sbronza se non sei mai depresso? Che ne sai dell'amore se non tradisci mai? Che ne sai tu dell'hangover e una pizza alle tre? Che ne sai tu di una vita in una stanza d'hotel? Che ne sai tu? Che ne sai? Successo se non ti è mai successo? Che ne sai della voglia se non ti lascia andare mai? Che ne sai della strada se non ti sei mai perso? Che ne sai di uno come me? Di uno come me? Che ne sai tu? Pizza alle tre. Che ne sai tu? Di una vita in una stanza d'hotel. Che ne sai tu? Che ne sai di me? Che ne sai di tutto questo? Che ne sai cosa ho perso? Che ne sai? Che ne sai? Se lo so, te lo so. Che ne parli lo stesso? Che sai di stare solo forse troppe volte? Come un solo di chitarra senza più le corde. Che ne sai tu? Che l'hangover è una pizza alle tre. Che ne sai tu? Chiuso dentro al privé. Che ne sai tu? Che ne sai? Che ne sai tu? Dell'hangover e una pizza alle tre. Che ne sai tu? Di una fig, di una stanza d'hotel. Che ne sai tu? Di gridare e non sapere il perché. Che ne sai tu? Che fa un tiro chiuso dentro al privé. Che ne sai tu?